L'amore è la cosa più bella che c'è. Il cuore mi batte a 200 perché non c'è tra di noi.